Preparativi. Carrie e Grace si offrirono subito di fare tutte le faccende di casa perché Laura e mamma potessero finire l'abito di cashmere. Quella settimana, dunque, si dettero tutti un grande affare. L'abito aveva un corpetto aderente con le stecche inserite in corrispondenza delle cuciture, che finiva a punta davanti e dietro ed era foderato di fine batista nera. Il colletto era alto, di cashmere, e le maniche lunghe, diritte e aderenti, un po' morbide in alto, ma ben strette ai polsi. Sul davanti, un'increspatura al giro manica, ripresa dalle pence più sotto, dava la necessaria ampiezza all'altezza del seno. Una lunga fila di bottoncini neri correva dallo scollo fino all'inserimento della gonna. La gonna arrivava a sfiorare il pavimento, restava piuttosto aderente in alto, ma scendeva ampia e svasata in fondo. Era anche quella foderata di batista e aveva una controfodera di crinolina dal fondo fino al bordo superiore delle scarpe. Gonna e fodera avevano tutte e due un orlo rivoltato al fondo, coperto da un filo di passamaneria che Laura aveva cucito a mano perché dal diritto non si vedessero i punti. Quella domenica non ci fu nessuna gita in calesse. Almanzo venne un momento in abito da lavoro a dire che non avrebbe onorato la festa perché voleva portare avanti la casa. Intendeva finire entro il mercoledì della settimana entrante e dunque potevano sposarsi giovedì. Sarebbe venuto a prenderla alle 10 perché quel giorno il reverendo Brown doveva partire col treno delle 11. Allora converrà che tu venga a prendere il bagaglio di Laura mercoledì col carro se ce la fai, disse papà. Almanzo disse che sarebbe venuto. Così fu tutto stabilito. Lui sorrise a Laura e ripartì. Martedì a mezzogiorno papà tornò dal paese portando in regalo a Laura un baule nuovo. Sarà meglio che tu lo prepari già oggi, disse. Con l'aiuto di mamma, Laura dedicò il pomeriggio a riempirlo con tutte le sue cose e sul fondo mise la vecchia bambola di pezza, Charlotte, con tutti i suoi vestitini ripiegati con cura in una scatola di cartone. Sopra trovarono posto gli abiti da inverno, poi le lenzuola, la sua biancheria, gli abiti da tutti i giorni e quello di Popelin marrone. Quello rosa fiori, che era il più nuovo, venne per ultimo perché non restasse troppo schiacciato. Nella cappelliera del baule infilò il cappello nuovo con le piume di struzzo e nello scomparto a cassetto i ferri da calza, gli uncinetti e i fili da ricamo. Carrie le portò la scatolina di vetro che stava sullo scaffale, dicendo: «Questa è tua, ti farà piacere averla». Laura la prese in mano, incerta sul da farsi. «Mi spiace portarla via, è uguale a quella di Mary, è un peccato separarle». «Guarda, ho messo la mia vicino a quella di Mary», disse Carrie, «così accompagni allo stesso». Allora Laura sistemò la scatolina in mezzo ai gomitoli di lana perché non si rompesse. Quando ebbe finito, chiuse il baule. Nel frattempo, mamma aveva steso un vecchio lenzuolo pulito sul letto. «Devi prendere la tua coperta patchwork», disse. Laura andò a prendere la bella coperta di ritagli di stoffe colorate che aveva fatto da bambina. Anche Mary ne aveva fatta una, con un disegno un po' diverso. Le avevano sempre tenute da conto ed erano ancora in ottimo stato. Mamma la piegò e la posò sul lenzuolo, poi ci mise sopra due grossi cuscini di piume. «Voglio che tu prenda anche questi, Laura. Sono fatti con il piumino delle oche che papà prendeva sul Silver Lake. Sono praticamente nuovi, li ho tenuti in serbo per te. E in questo pacchetto c'è una tovaglia a quadri bianchi e rossi, come quella che abbiamo sempre avuto qui in casa. Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere averne una uguale sul tuo tavolo», disse mamma, posando il pacco sopra i cuscini. Poi ripiegò le cocche e le annodò ben strette. Ecco fatto, così non prendono polvere. L'indomani mattina Almanzo venne con Barnum e Skip attaccati al carro. Aiutò papà a caricare il baule e l'involto con la coperta e i cuscini. Poi papà disse: «Aspetta un momento, non andare via, torno subito». E rientrò in casa, sicché se ne stettero tutti lì a chiacchierare per qualche minuto in attesa che tornasse fuori. Dopo un po' lo videro comparire da dietro l'angolo della casa con la vacca preferita di Laura. Era una vacca giovane, color nocciola, di indole mite. La legò alla stanga posteriore del carro e buttò nel cassone la corda dicendo: «La cavezza va con lei». «Opa!» esclamò Laura. «Vuoi dire che posso portarmi via la bionda?» «Sì», disse papà. «Devi avere una delle bestie che mi hai aiutato ad allevare». Laura non riuscì a dire nulla, ma gli rivolse uno sguardo pieno di riconoscenza. «Non le succederà niente legata dietro quei due cavalli?» chiese mamma preoccupata. E Almanzo rispose che no, non le sarebbe successo niente, i cavalli erano docilissimi. Poi Poi ringraziò papà dicendo quanto apprezzava il dono e a Laura disse: Sarò qui domani mattina alle 10. Mi troverai pronta, disse Laura. Ma mentre guardava il carro allontanarsi, non riusciva a rendersi conto che il giorno dopo se ne sarebbe andata di casa per sempre. Le sembrava impossibile che non fosse come tutte le altre volte che era andata in calesse con Almanzo, facevano un giro, poi lei tornava a casa sua. Quel pomeriggio stirarono l'abito di cashmere con ogni cura, poi mamma preparò una torta nuziale. Laura contribuì montando a neve le chiare d'uovo con la forchetta. Ci volle un mucchio di tempo prima che mamma le giudicasse abbastanza ferme. Anche il mio braccio è duro, disse Laura ridendo e massaggiandosi la spalla dolente. Questa torta va fatta come si deve, disse mamma. Non ci sarà nessuna festa, ma avrai almeno un pranzo di nozze a casa con la torta nuziale. Quella sera, dopo cena, Laura andò a prendere il violino. Ti prego, pa, suona un po'. Papà tolse il violino dalla custodia. Ci mise un bel pezzo ad accordarlo. Poi dovette impeciare l'archetto, ma finalmente lo alzò sulle corde. Si schiarì la voce e disse: Cosa vuoi che suoni, Laura? Prima la canzone di Mary, rispose Laura, e poi tutte le altre, una dopo l'altra, finché hai voglia. Andò a sedersi sulla soglia. E papà e mamma spostarono anche loro la sedia appena lì dietro, sulla porta, per guardare la luce della sera sulla prateria. Papà suonò Mary delle Highlands e poi, mentre il sole calava, tutte le vecchie canzoni che Laura conosceva fin da quando era bambina. Il sole scomparve, tirandosi dietro strisce di luce. I colori si spensero, la prateria si riempì di ombre e apparvero le prime stelle. Carrie e Grace erano venute lì anche loro. E il violino continuava a cantare. Cantò le canzoni che Laura ricordava dai tempi dei grandi boschi del Wisconsin e quelle che papà aveva suonato accanto al fuoco del bivacco nelle pianure del Kansas. Riprese il canto notturno dell'usignolo sulle sponde del Verdigris River, ricordò i giorni nel ricovero sottoterra sulle sponde del Plum Creek e le sere d'inverno nella casa che papà poi aveva costruito laggiù. Cantò il Natale sul Silver Lake e la primavera dopo il lungo inverno. Poi passò a una nota più dolce e la voce profonda di papà la raccolse e si unì al canto. In un tempo remoto, senza memoria, quando del mondo ebbe inizio la storia, dai sogni che ognuno nutriva nel cuore, trasse un canto dolcissimo amore. E là, ove il fuoco nottetempo brillava, quel canto sommesso a ciascuno donava. Solo un canto la sera, quando la luce sparisce e d'ombra la terra tutta fiorisce. Sia pur stanco il cuore, sia lungo il giorno, a sera risuona quel canto intorno, a sera risuona quel canto intorno. Ancora oggi quel canto d'amore sentiamo, chiuso nel cuore ancora lo portiamo. Sia pur stanco il passo, sia lento il cammino, a sera quel canto ci è sempre vicino. E quando anche noi saremo in fondo alla via, sarà ancora quel canto che ci terrà compagnia. Una casetta grigia laggiù a ovest. Quando Almanzo arrivò, Laura era pronta. Indossava l'abito nero di cashmere e il cappello verde salvia con la fodera azzurra e il nastro, anche quello azzurro, annodato con un fiocco sotto l'orecchio sinistro. Quando camminava, la morbida punta nera delle scarpette sbucava appena di sotto l'ampia gonna. Mamma le aveva appuntato con le sue mani, sul bordo di merletto bianco che rifiniva il collo dell'abito, la sua spilla quadrata d'oro con la fragola al centro. Ecco, aveva detto poi, anche se hai un abito nero stai proprio bene. E papà aveva bofonchiato proprio così, scricciolo. Carrie le aveva dato un bel fazzolettino, orlato con un merletto che richiamava quello dell'abito. L'ho fatto per te, se lo tieni in mano sta bene così bianco sul nero dell'abito. Grace era rimasta lì ad ammirarla con gli occhi spalancati. Poi arrivò Almanzo col calesse e tutti si fecero sulla porta a guardarli partire. Per via Laura disse soltanto: Il reverendo Brown sa che arriviamo? Sì, sono passato da lì venendo. Non userà la parola obbedire. Venne ad aprire la signora Brown, li fece accomodare e tutta agitata disse che andava a chiamare il marito, che intanto sedessero. Entrò nella camera da letto e chiuse la porta. Laura e Almanzo sedettero e aspettarono. Al centro della stanza, sopra un tappeto di pezza lavorato all'uncinetto, c'era un tavolino col piano di marmo. Alla parete era appeso un quadro tutto colorato, dove si vedeva una donna aggrappata a una croce bianca piantata su una roccia, col mare in tempesta tutt'attorno e un cielo pieno di lampi. Dall'altra camera da letto uscì Aida, che andò a sedersi zitta zitta accanto alla porta. Fece un sorriso intimorito a Laura, poi stette a cincischiare il fazzoletto con gli occhi bassi. Dopo un po', dalla cucina uscì un giovanotto alto e magro che andò a sedersi anche lui. Laura pensò che doveva essere Elmer, ma non si voltò a guardarlo perché in quel mentre era comparso, infilandosi la giacca, anche il reverendo Brown. Si sistemò il colletto, poi disse a Laura e ad Almanzo di alzarsi e di mettersi di fronte a lui. E così furono sposati. Il reverendo Brown, la signora Brown ed Elmer vennero a stringere loro la mano. Almanzo dette al reverendo una banconota piegata in due. Lui la spiegò e gli ci volle un momento per capire che Almanzo intendeva che li tenesse quei 10 dollari. Aida strinse forte la mano di Laura e fece per dire qualcosa, ma la voce le si strozzò in gola. Allora le dette un rapido bacio, le infilò in mano un pacchettino e scappò via. Laura e Almanzo uscirono nel sole e nel vento. Lui l'aiutò a salire sul calesse, sciolse i cavalli e riattraversarono il paese. Arrivarono che il pranzo era pronto. Mamma e le ragazze avevano sistemato il tavolo in soggiorno tra la porta e le finestre aperte. Avevano apparecchiato con la tovaglia più fine e i piatti più belli. Al centro del tavolo brillavano nel loro contenitore i cucchiai d'argento. I coltelli e le forchette di acciaio splendevano accanto ai piatti. E mentre Laura indugiava sulla soglia un po' imbarazzata, Carrie chiese: «Che cos'hai in mano?» Lei guardò. Insieme al fazzoletto di Carrie aveva ancora in mano il pacchettino che le aveva dato Aida. «Oh, non lo so, è una cosa che mi ha dato Aida!» Lo aprì e ci trovò dentro, tutto ben ripiegato, il pizzo più bello e più fine che avesse mai visto. Era uno scialletto triangolare di filo di seta bianco con un delicato disegno di fiori e foglie. «Oh, questo ti durerà tutta la vita, Laura!» disse mamma. E Laura pensò che l'avrebbe sempre tenuto da conto come una cosa preziosa, quel dono che Aida aveva fatto per lei. Poi entrò Almanzo, che era andato a staccare i cavalli, e sedettero a tavola. Mamma aveva preparato un pranzo davvero speciale, ma a Laura parve che tutto avesse lo stesso gusto. Perfino la torta sembrava segatura e non le andava giù, perché ora si rendeva conto davvero che stava per andare via di casa e che non ci sarebbe tornata mai più per restarci. Indugiarono seduti a tavola a lungo perché sapevano che poi sarebbe stato il momento degli addii, ma alla fine Almanzo disse che era ora di andare. Laura si rimise la cuffia e quando il calesse fu davanti alla porta uscì fuori. Si scambiarono baci e saluti mentre Almanzo aspettava per aiutarla a salire, ma fu papà a prenderle la mano. D'ora in poi sarai tu ad aiutarla, giovanotto, disse, ma questa volta lo faccio io. Mamma portò un cestino coperto da un panno bianco. «Vi ho messo qualcosa per cena», disse, e le tremarono le labbra. «Torna presto a trovarci, Laura». Almanzo aveva già preso le redini quando Carrie arrivò di corsa con la vecchia cuffia estiva di Laura. «La stavi dimenticando qui!» gridò. Almanzo trattenne i cavalli e Laura prese la cuffia. Mentre partivano, Grace gridò tutta agitata: «Laura! Mamma dice che se non tieni la cuffia in testa diventerai nera come un'indiana, ricordatelo!» E così partirono tra le risate. Era la stessa strada che avevano fatto tante volte in passato. Passarono la strettoia di Big Slough, svoltarono all'angolo della scuderia di Pearson, poi fecero tutta Main Street, attraversarono i binari della ferrovia e imboccarono la carreccia che portava alla concessione di Almanzo. Tacquero per gran parte del percorso, fu solo verso la fine del viaggio che Laura notò i cavalli. «Ma sono Prince e Lady!» esclamò stupita. «Sì, è cominciata con loro», disse Almanzo. «Mi sembrava giusto che fossero loro a portarci a casa, ed eccoci qua». I solchi tracciati dall'andare e venire del carro e del calesse di Almanzo descrivevano un semicerchio perfetto che si infilava in mezzo agli alberelli della piantagione e sboccava davanti alla casa. Eccola lì, nuova nuova e tutta ben rifinita, con le pareti rivestite di tavole e tinte di un bel grigio chiaro, la porta proprio al centro della parete e le due finestre, una di qua e una di là, le davano un'aria ridente. Sulla soglia era sdraiato un grosso cane pastore color castagna che, sentendo arrivare il calesse, si alzò e molto compitamente salutò Laura sventolando la coda. «Ciao, Shep!» disse Almanzo. Diede la mano a Laura per aiutarla a scendere e aprì la porta di casa. «Entra, Io vado a sistemare i cavalli. Laura si fermò appena oltre la soglia a guardarsi attorno. Quella era la stanza di soggiorno. Aveva le pareti intonacate di bianco. A quella di fondo era appoggiato un tavolo ribaltabile con sopra la tovaglia a quadri bianchi e rossi di mamma. Ai lati del tavolo stavano due sedie e lì accanto c'era una porta chiusa. Al centro della parete di sinistra c'era una finestra che guardava a sud. Lì davanti si facevano compagnia l'una di fronte all'altra, due sedie a dondolo. Accanto a quella più vicina a Laura c'era un tavolino rotondo e sopra pendeva, appesa al soffitto, una lampada. Lì ci si poteva sedere la sera, magari a leggere il giornale, e nell'altra magari a sferruzzare. A dar luce a quella bella stanza c'era anche una seconda finestra accanto alla porta d'ingresso. Nella parete di destra si aprivano due porte. La prima dava nella camera da letto. Sul letto era stesa la coperta patchwork di Laura e anche i due cuscini di piuma erano già al loro posto. E lungo la parete, ai piedi del letto, correva per tutta la lunghezza fino alla porta e un po' più in alto della testa di Laura, un largo ripiano da cui pendeva fino a terra un'allegra tenda di tela a fiorami. Era l'armadio perfetto per i vestiti. Sotto la finestra che si apriva nella parete a destra della porta era sistemato il suo baule. Le era bastata un'occhiata per vedere tutto. Si tolse la cuffia e la posò sopra il ripiano. Aprì il baule, prese l'abito azzurro di cotonina e il grembiule rosa con le balze e si cambiò. L'abito di cashmere lo appese con cura dietro la tenda e tornò nell'altra stanza mentre Almanzo entrava dall'altra porta, quella accanto al tavolo. Già pronta per metterti al lavoro, vedo, disse lui con un sorriso, posando il cestino di mamma su una sedia. Meglio che mi dia da fare anch'io. Sulla porta della camera da letto si voltò per dire: È stata tua madre a dirmi di aprire il fagotto e di mettere le cose al loro posto. Laura andò ad affacciarsi alla porta da cui era entrato. Lì c'era il ripostiglio, che in verità era una stanzetta a sé stante, con la cucina economica che Almanzo aveva portato dalla sua casa di scapolo. C'erano anche una finestra e una porta che dava sul retro, da cui si vedevano alcuni alberelli e più in là la stalla. Alle pareti erano appese pentole e padelle. Tornata nell'altra stanza, prese il cestino e aprì l'ultima porta. Sapeva che quella doveva essere la dispensa, ma sulla soglia si fermò un momento a guardare con un moto di stupore, poi subito di allegria. C'era un'intera parete tutta scaffali e cassetti, e un altro scaffale, largo e robusto, correva anche lungo la parete di fondo, sotto una grande finestra. Laura ci posò sopra il cestino e cominciò a vuotarlo. Ci trovò dentro una bella forma di pane fresco di forno, un grosso panetto di burro e l'avanzo della torta. Lasciò tutto lì e si mise a ispezionare scaffali e cassetti. Gli scaffali scendevano dal soffitto fino a metà parete, quelli in alto erano vuoti, su quelli più in basso c'era una lampada di vetro, i piatti di Almanzo, due teglie piene di latte e altre teglie vuote. Al fondo, nell'angolo dove lo scaffale passava sopra quello sotto la finestra, c'era una fila di barattoli con sale, pepe e altre spezie. Sotto quello scaffale correva una fila di cassetti di dimensioni diverse. Direttamente sotto i barattoli, e dunque appena sopra lo scaffale della finestra, ce n'erano due stretti e poco profondi, uno pieno di zucchero bianco, l'altro di zucchero di canna. Comodo averli così a portata di mano. Uno più grande era pieno di farina di frumento, due più piccoli di farina integrale e farina di gran turco. Così potevi stare allo scaffale sotto la finestra e impastare quello che lo volevi senza dover muovere un passo. Dalla finestra si vedevano alberelli e cielo azzurro. Un altro cassetto era pieno di asciugamani e salviette, e in un altro ancora c'erano due tovaglie coi tovaglioli. Ce n'era uno poco profondo per le posate. Sotto la fila di cassetti c'era una zangola di pietra col suo pestello, il resto era vuoto, per altri oggetti che sarebbero venuti col tempo. Nell'ultimo cassetto, piuttosto grande, c'erano un avanzo di pane e mezza focaccia ripiena. Laura ci mise dentro la pagnotta di mamma e l'avanzo di torta, poi tagliò un pezzetto di burro dal panetto del cestino, lo mise su un piatto e lo ripose nel cassetto del pane. Dall'anello di ferro che aveva visto incastrato nel pavimento, aveva capito che lì doveva esserci una botola. Quando lo alzò e provò a tirare, lo sportello si aprì e andò ad appoggiarsi contro la parete di fronte alla scaffalatura. Lì sotto c'era la scala che scendeva in una piccola cantina buia e fresca. Avvolto il panetto di burro in un panno, Laura scese di sotto e lo sistemò su uno scaffale che dondolava dal soffitto. sentì camminare sopra la sua testa e tornò di sopra giusto mentre il manzo la chiamava. «Pensavo ti fossi persa in questa casa immensa», disse lui. «Ho messo il burro in cantina, così sta al fresco». «Ti piace la dispensa?» chiese al manzo. Laura pensò a quante ore di lavoro doveva averci dedicato per costruire la scaffalatura e tutti quei cassetti. Moltissimo. Bene, vieni, ti faccio conoscere il puledro di Lady, che ormai è grande, e voglio anche farti vedere la stalla, i box dei cavalli e il posto dove ho messo la tua mucca. Ho piazzato il picchetto in mezzo all'erba, giusto che non possa arrivare agli alberi. E uscirono per la porta del ripostiglio. Visitarono ogni angolo della stalla e del cortile. Al manzo le mostrò i grossi covoni di fieno che aveva sistemato là dietro a nord, in modo da proteggere stalla e cortile dai venti dell'inverno. Laura accarezzò i cavalli e il puledro e anche Shep, che li aveva seguiti e non li mollava un istante. Poi andarono a guardare il futuro bosco. C'erano salici, aceri, pioppi, erano ancora piccoli, quasi solo dei virgulti, ma vigorosi. Il pomeriggio volgeva al termine. Era tempo di accudire le bestie e di preparare la cena. Non accendere la stufa, disse al manzo. Tira fuori il pane e il burro che ci ha dato tua madre. Io vado a mungere la bionda e così abbiamo il latte fresco. C'è anche un avanzo di torta, disse Laura. Quando ebbero cenato e rigovernato, andarono a sedersi sulla soglia di casa. Scendeva la sera. Sentirono Prince sbuffare nella stalla e con un wuff sdraiarsi sulla sua lettiera di paglia pulita. Più in là si intravedeva la massa scura della bionda che si era accovacciata anche lei a ruminare placidamente. Shep era venuto ad accucciarsi ai loro piedi, era già diventato il cane di tutti e due. Laura si sentiva colma di felicità. Sapeva che non avrebbe mai avuto nostalgia della vecchia casa. Era così vicina che poteva tornarci ogni volta che ne avesse avuto voglia, ma la sua nuova casa era quella dove ora viveva con Almanzo. Avevano una vita da costruire. Tutto quello che c'era lì intorno apparteneva a loro, i cavalli, la mucca, il terreno e anche gli alberi con tutte le loro giovani foglie che stormivano alla brezza. Il crepuscolo andava cedendo alla notte. In cielo si accesero le stelle e lentamente salì la luna, inondando ogni cosa di luce argentata. Il vento, che per tutta la giornata aveva soffiato sulla prateria, ora se n'era andato a dormire e una grande quiete era calata sulla terra. «Com'è bella questa notte!» disse Almanzo. «Com'è bello questo mondo!» rispose Laura, e le parve di udire il canto del violino di papà e l'eco di una canzone. «Se ne vanno gli anni d'oro, anni sereni di felicità!» Fine.